Tempo di Sport con Carlo Genta. Beh, ogni tanto ci piacerebbe anche fare delle vacanze, non ci riusciamo e allora siamo qui con voi anche a Capodanno, io e Andrea Zorzi. Ciao Andrea! Ben ritrovati! Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadone in regia. Dunque domani comincia l'anno delle Olimpiadi. Domani cominciano le Olimpiadi, per gli appassionati come noi. Sono già cominciate. Cerimonia d'apertura. Stanotte botti e cerimonia d'apertura delle Olimpiadi. No, ci sarà da aspettare ancora qualche mese, però lì stiamo andando. E allora partirei da te, dal tuo sport. Cosa dici? Dalla pallavolo, anche perché insomma, ci hai raccontato per Sky dal Giappone il mondiale degli uomini è andato non benissimo, cioè bene ma non benissimo. Lo chiediamo alle ragazze. Chiediamo a Massimo Barbolini, non solo un'opinione sulle ragazze, ma anche sui ragazzi, però un passo alla volta. Tutto ben arrivato, grazie per la partecipazione. Ciao Massimo. Ciao e tanti auguri a tutti. Senti, ti va di fare un po' il quadro di questa 2011? Ah, il quadro da parte mia è un quadro bellissimo con qualche scuro, ma tanti chiari, nel senso che alla fine è stata una stagione abbastanza difficile, siamo passati attraverso qualche delusione, però alla fine quello che è successo con la vittoria al World Cup penso che cancella assolutamente tutto e ci proietta appunto verso un 2012 di grande fiducia, grande speranza e con grande ambizione. Ho una curiosità, Massimo, rispetto a quello che ti aspettavi, tu sei molto bravo a non farti mai tradire dalla presunzione di poter prevedere il futuro, ma rispetto a ciò che ti aspettavi, cosa ti ha sorpreso di più in questi ultimi mesi? In questi ultimi mesi mi ha sorpreso molto, ma più che sorpreso c'è stata la conferma della grossa capacità delle atlete che io alleno, perché grossa capacità a reagire a un momento difficile, a un momento così in cui è arrivato un risultato. Tante volte c'è bisogno un po' più di tempo, diciamo, per accettare e per riprendersi da una sconfitta. Tante volte nella nazionale succede questo, perché magari ti va male un impegno, c'hai quasi una stagione davanti per rimediare. Invece per le ragazze sono state bravissime, perché dopo un europeo appunto fuori dal podio e a distanza di un mese sono riuscite a reagire, sono riuscite a ritrovare le forze e non solo a qualificarsi ma anche a vincere una World Cup. Quindi diciamo che più che sorprendermi mi si è confermata e forse ancora ulteriormente così aumentata la stima in queste ragazze, perché era veramente difficile sia per quello che era successo prima, quindi un europeo che non era andato tanto bene, sia per l'estrema difficoltà della World Cup. E la faccia anche di chi Andrea diceva senza te Agüero non riusciremo più a vincere, che siamo usciti a questa depressione per cui di solito serviva la grande cubana se non ce la facciamo, invece no, Andrea. Di solito Massimo è bravissimo a evitare di guardare quello che non c'è. Sì. Non c'è, punto e basta. In tanti lo dicono, in pochi lo fanno. Barbolini lo fa per davvero. Sì. Infatti l'altra curiosità è, tu non ami puntare troppo solo sull'aspetto emotivo, psicologico, ma cerchi di concentrarti sugli aspetti tecnici. Quali sono quindi le chiavi di lettura per questa straordinaria cavalcata alla World Cup 2011? Ma sì, il discorso della chiave tecnica rispetto che la chiave così motivazionale e così via, penso che parte dalla convinzione che e le atlete sono persone, prima di tutto persone intelligenti, per cui uno può raccontare tutte le favole del mondo che vuole, ma se un atleta non si sente sicuro dal punto di vista tecnico, e tu lo sai meglio di me, gli si può raccontare qualsiasi cosa che alla fine vengono fuori i problemi. Per cui penso che siamo partiti a cercare di ricreare un po' quelle sicurezze che fanno parte della nostra nazionale, che partono dalla seconda linea, quindi partono dalla ricezione, partono dalla difesa, per poi sfociare appunto in un'ottima situazione d'attacco che è anche frutto appunto di una buona ricezione e di tante occasioni che si riescono a creare grazie alla difesa. Penso che questo sia stato un po' la chiave di volta, è stata quella, cercare così di enfatizzare un pochino quelle che sono le nostre qualità, che partono appunto soprattutto dai fondamentali di seconda linea, poi hanno degli eccezionali interpreti davanti che però quando non c'è una buona resa dietro è difficile veramente davanti esprimersi, si è visto anche l'europeo. Caro Carlo, fondamentali di seconda linea, quindi difesa e ricezione, quelle cose umili, sì. Non le schiacciate che piacciono, lì nasce la vera squadra. Se facevi tu le schiacciate, ma fa il bravo. Massimo, posso farti la domanda peggiore di tutte? Ai, sì. Poi io posso vedere se rispondere, sì. Allora, domani inizieranno delle Olimpiadi, a questo punto tu mi dirai da campione in carica come andiamo a Londra. Ma andiamo, diciamo, abbiamo vinto sicuramente, andremo a Londra come la squadra che ha vinto l'ultima manifestazione importante, però sappiamo, si è visto anche negli ultimi anni, come c'è una grandissima alternanza, non nella pallavolo femminile, adesso anche nella maschile, ho visto sta iniziando, c'è una grandissima alternanza, perché penso che ci siano quelle 5-6 squadre di altissimo livello, ne spiccano ogni tanto uno o due e quelle vincono, per cui andremo, penso, con l'idea assolutamente di provare a essere protagonisti, perché andare alle Olimpiadi, sì, è vero che nasce da lì un po' il decubertiano, è importante partecipare, ma penso che una nazionale italiana di qualsiasi sport o un qualsiasi atleta italiano che va all'Olimpiade deve andare per puntare al podio. Questo non vuol dire che è facile ottenerlo, assolutamente, però deve essere questo lo spirito con cui va un atleta che ha la fortuna di vestire la maglia azzurra, e andremo con questo spirito. Sappiamo che sarà difficilissimo, però penso che quest'anno sia servita ancora di più per capire che non c'è bisogno magari di lavorare tantissimissimo, ma se si riesce a lavorare bene, se si riesce a lavorare con una discreta tranquillità, si può arrivare a dei grossi risultati. Questo mi piace, non scansiamo le responsabilità, cioè andiamo da gente che ha vinto l'ultima grande manifestazione e dunque ci proveremo. Questo mi piace ovviamente sentirlo, Andrea. Assolutamente sì. Ti propongo due blocchi, Massimo: in alto Stati Uniti, Cina e Brasile, sotto Germania, Serbia e Giappone. Diciamo che come sono due blocchi entrambi tutti molto forti, ma Stati Uniti, Cina e Brasile forse sono le migliori. Dove metti l'Italia? Ma l'Italia la metto sopra con queste, con anche la Russia, però, perché c'è anche la Russia che penso che si qualificherà sicuramente e penso che sarà una grossa protagonista. Non c'era la World Cup, è una squadra che fa sempre delle scelte particolari, nel senso che magari lascia a riposo le giocatrici negli anni dispari, non anche per poi riavere negli anni pari. Non a caso ha vinto le ultime due edizioni dei mondiali, per cui cercherà di essere sicuramente tra le protagoniste, per cui sono d'accordissimo con te sull'inserire la Cina anche nella prima fascia, perché può solo migliorare. Infatti io penso che quest'anno la partita più bella, più difficile, più determinante anche della World Cup è stata quella contro la Cina, vinta da noi 3-2, e voglio mettere anche l'Italia in questa fascia. Dobbiamo migliorare ancora qualcosa, dobbiamo migliorare assolutamente ancora qualcosa per poter ambire a essere in questa fascia, ma sono sicuro che abbiamo il tempo per farlo. Hai voglia di fare una breve incursione anche nella pallavolo maschile, giudicando un po' quello che è accaduto nella World Cup di Berruto e dei suoi ragazzi? Ma assolutamente, con molta umiltà, no, ho guardato molto perché mi è piaciuto, c'era la possibilità, e per cui a me piace poi la pallavolo, quindi sia maschile o femminile l'ho guardata molto, ed è stato un peccato perché penso dopo la vittoria con gli Stati Uniti si erano lanciate le basi per un grandissimo risultato, e poi purtroppo anche le altre giocano. Penso che sia stata una World Cup molto equilibrata, molto particolare, dove si è visto che anche nella maschile adesso non c'è una squadra che per forza deve vincere, e questo penso che sia di buon auspicio per gli azzurri, perché assolutamente la qualificazione alla portata è difficile, perché il solito discorso che si faceva per le donne, per la squadra europea è molto difficile qualificarsi, ancora di più forse negli uomini, dove non ci sono tantissime squadre extraeuropee di valore, perché se si toglie Stati Uniti e Brasile, sì, Cuba che alterna cose buone a cose cattive, le altre sono tutte europee, per cui non sarà facile per i ragazzi, però penso che sia in Bulgaria, poi eventualmente in Italia ce la faranno, e lì saranno sicuramente protagonisti delle Olimpiadi, perché come ho detto non c'è una squadra, io ti dico da esperto tra virgolette della maschile, vedrei solo gli Stati Uniti se riprendesse bolla a giocare il palleggiatore come squadra sopra gli altri, se no tutte sono alla portata dell'Italia. D'altra parte questo ha detto la World Cup, non solo gli manca Ball, che è un grande, ma che quelli che hanno sono scarsi. sì, esatto, c'è un abisso, e hanno dei grandissimi giocatori, e per cui se dovessero recuperare lui, allora penso che loro avrebbero un qualcosina in più. Poi lo sai meglio di me, ma Andrea, quando gli americani vedono i cerchi olimpici in tutti gli sport, si trasformano. Impressionante, hai ragione, impressionante. Nessuno sa programmare come loro o fare il meglio nei momenti olimpici. Esatto, agonisti, esatto. per definizione. Coach, grazie. In bocca al lupo. Grazie a voi e tanti auguri. Grazie. Ciao, grazie Massimo, davvero. Stai bene. Tanti auguri. Massimo Barbolini, CT vincente. L'ho già detto altre volte, a parte che parlare con Massimo è sempre piacevolissimo, perché sì, è una persona che ama la pallavolo, che continua a studiare, che ha le idee piuttosto chiare su tutto, non dice esattamente tutto quello che pensa, ma questo fa parte di lui, ma soprattutto lui ha passato alcuni momenti quest'anno in cui era a una spennata da essere esonerato, non ha aperto bocca su questo, ha vinto la World Cup e la risposta è stata: ma le critiche sono legittime, magari un po' più di rispetto l'avrei gradito. Non esattamente Mourinho. Esatto, non esattamente Mourinho, Mourinho. Non esattamente Mourinho. No, ma comunque, cioè, Barbolini non è stata la prima volta che ha toccato il tetto del mondo, insomma, è comunque un allenatore vincente che è alla guida di questa squadra ormai da molti anni, dal 2006, ha fatto un ciclo vincente, quindi non è che si è inventato in questa manifestazione. C'è una cosa strana sul ciclo di Massimo, a me non piace molto la scaramanzia, ma sai che lui vince negli anni dispari? Sì, eh? Sì, europei, World Cup, mondiali, olimpiadi, un po' meno bene. E domani cominceranno pari? Eh sì. Ma dai. Ci fermiamo, traffico, è il momento del... Sai quanti sono in giro adesso per andare verso il veglione di Capodanno? Sono tutti lì ad ascoltarci. Domani inizia l'anno olimpico, abbiamo iniziato come auspicio con uno che ci va da favorito, che non rifiuta ruolo, che ci va alla guida di una nazionale vincente, Massimo 110 Barbolini. Atleti qualificati. 110 atleti qualificati. C'è un sito molto interessante del CONI, che è legato all'Onda 2012, in cui in tempo reale vengono aggiornati i giorni che mancano, sempre di meno, ormai ci siamo quasi. E domani c'è il cerimonia inaugurale. E gli atleti invece che crescono, quelli che sono qualificati, ovviamente 110 non significa 110 discipline diverse. Certo. Nella pallavolo, per esempio, ce ne sono 14 sono qualificate, però molto interessante. Dateci un'occhiata. Che sensazione hai andando verso questa Olimpiade, Andrea? È un'Olimpiade che ti affascina, è un'Olimpiade che ti stimola, è un'Olimpiade... Sono molto curioso, dunque io ho avuto la fortuna di tanti anni di partecipare spesso alle Olimpiadi, dall'88 come atleta, sì. 92 Barcellona, 96 Atlanta, nel 2000 come giornalista, Atene l'ho saltata e poi invece Pechino l'ho fatta anche quella come giornalista, al di là che sono Olimpiadi radicalmente diverse, Beh, certo. È bello andarci come giornalista, ma come atleta è... un'altra cosa. Tutta grazie, un'altra storia. Diciamo questo, c'è un crescendo dall'88, sì, che fu la prima Olimpiade di riconciliazione, basta boicottaggi, Los Angeles, Mosca. L'88 fu il momento nel quale è ripartita la storia olimpica come grandissimo evento. Sì. È il momento. Anche un'Olimpiade molto chiacchierata, come ben sai, per le ragioni di doping, Ben Johnson, eccetera. Qualcuno dice l'Olimpiade più dopata della storia. Può essere, può essere. E anche l'Olimpiade che dà inizio a questa nuova legame sempre più forte con gli sponsor. Cresci, più importanti, sempre di più, una sorta di corsa al gigantismo che è finita con la Cina. Con Pechino, 2008, più di così... Si muore. A parte che non si può, perché economicamente siamo in una fase drammatica adesso, ma non si può più della Cina. E quello che è veramente molto stimolante è il modo nel quale gli inglesi hanno, per esempio... accettato questa sfida. Sebastian Coe, Jonathan Edwards, due ex atleti che hanno ruoli importanti nel comitato organizzatore, mi piacciono molto perché hanno capito che occorreva capire da che parte deve andare lo sport iperprofessionistico. Non vogliamo tornare al pane e formaggio, ma in che modo lo sport può trovare una nuova strada, perché quella che abbiamo percorso finora è comunque finita, perché meglio della cerimonia di apertura di Pechino non si può fare, di più di quanto ha fatto Pechino per le strutture, e non si può fare. Ecco perché trovo bellissima l'idea degli impianti riciclabili. Ci sono alcuni impianti di alcuni sport che non sono molto popolari in Inghilterra, giusto, che verranno costruiti, giusto, smontati e trasferiti a Rio de Janeiro per il 2016. No, ma certo, ma anche perché ogni Olimpiade, tu lo sai, soprattutto quelle dell'era moderna, ha lasciato il mondo, nei paesi in cui è stato, seminato di impianti su cui poi sono cresciute le erbacce, perché comunque impianti giganteschi, bellissimi e poi di fatto inutilizzati, costosissimi. Quindi questo credo sia la grande rivoluzione. No? È uno dei grandi limiti di questo evento mondiale che obbliga gli organizzatori a modularsi per un evento globale e che poi non possono comunque in ogni disciplina tenere quel tipo di livello. Questa è la vera grande sfida. Ultimissima, personalissima opinione, dovessi raccontarti da giornalista, quindi da persona rilassata che partecipa a un'Olimpiade, qual è la più bella a cui ho partecipato? Non ho alcun dubbio, Sydney è la migliore. È l'unica Olimpiade, l'unica città, l'unica nazione che era veramente felice di avere un sacco di gente che andava lì per le Olimpiadi. Sono distanti, sono down under, e per loro essere al centro del mondo era una grande opportunità. Lì veramente ci siamo sentiti ben accolti. Senti, abbiamo aperto il programma con un allenatore vincente, Massimo Barbolini, il pilota di una delle squadre italiane che va con il favore del pronostico e comunque va con ottimi auspici. Adesso io vorrei. Ma chi porta a casa le medaglie? Chi porta a casa le medaglie storicamente nello sport azzurro alle Olimpiadi? Dov'è la cassaforte? La scherma. Da sempre. Sempre lì. Arriviamo lì e diciamo: tanto ci sono quelli che mettono le cose a posto. E allora io saluto e ringrazio Elisa Di Francesca, nostra amica oltre che grande campionessa. Ciao Elisa. Ciao, grazie a voi. Ti lascio ad Andrea Zorzi per la prima domanda. Ben trovata. Come ci si sente ad essere obbligati a portare a casa un sacco di medaglie per permettere a noi italiani di dire: ma come siamo forti alle Olimpiadi? Beh, obbligati no. Innanzitutto, l'ultima volta che si fece questo discorso, ricordo, era a Catania durante i mondiali, della gara squadre, da parte delle ragazzi e le ragazze delle altre armi, che dicevano: tanto voi domani vincete, oramai vincete tutto, così, e lì arrivammo seconde. E comunque, anche se è uno sport che ha sempre regalato grandi soddisfazioni, ottime prestazioni, tutto quanto, sono comunque frutto di un grande lavoro e non è detto niente, non c'è niente di scritto, ecco. Poi per me questa sarebbe la prima Olimpiade, quindi... Sì. Ti divertirai moltissimo. Il villaggio olimpico è un posto meraviglioso, lo seguo con un po' di pressione, di tensione, perché alla fine però è veramente un posto meraviglioso, quindi complimenti per la qualificazione. Senti, domanda da un ex sportivo di squadra: anche voi avete discipline importanti nel quale giocate come squadra, però alla fine la scherma è uno sport individualista, come ci si trova in queste due attività diverse? Inizialmente era un po' un problema, nel senso che comunque si veniva dalla prestazione individuale, dalla gara individuale, magari poi non andata neanche bene, perché capitava anche di perdere con le ragazze, proprio le italiane, che poi comunque siamo le più forti, diciamo, come squadra, individualmente e come squadra. Quindi ti capitava di dover tirare a fianco a queste altre ragazze che ti avevano battuto, no? Oppure che tu avevi battuto loro, e comunque era difficile mentalmente, insomma, l'approccio con la gara a squadre. Adesso, con le esperienze, con le varie gare, diciamo che ci siamo tutte più o meno abituate. Altra curiosità, volevo chiedere una curiosità mia, Elisa, ma quanto conta l'armonia in uno sport individuale in cui vince la squadra? Cioè, è così importante l'armonia dello spogliatoio, o si può anche non essere particolarmente amici o amiche e comunque puntare ad un obiettivo comune? Allora, per me è molto importante l'armonia. Guarda, ti faccio l'esempio della squadra francese, per esempio. Sì. Loro, le ragazze, sono molto unite, sono tanto amiche, sono veramente, veramente unite durante la gara squadre, pur non essendo fortissime. Le varie componenti della squadra comunque riescono a vincere, riescono a battere anche altre squadre più forti di loro, perché appunto c'è questo spirito di squadra, c'è questa armonia, c'è questo andare d'accordo sia fuori che dentro la squadra. Noi magari siamo un po' diverse caratterialmente, noi componenti della squadra, però comunque per quel giorno, per quell'obiettivo, per quella medaglia, cerchiamo di sopperire con la nostra forza, con la nostra tecnica. Cioè, ce l'ha detto Elisa, insomma, che alla fine brava. Senti, torniamo, hai parlato di Francia come di una grande nazione che ha tradizione nella scherma, la Russia mi pare sia un'altra che ha grande tradizione. Quali sono a livello mondiale le grandi scuole a cui si può ispirare? A livello mondiale, ma io adesso non è per dire, però quella italiana prima di tutto, poi sì, anche la scuola francese, la scuola russa, le scuole asiatiche anche, perché comunque sono molto forti e crescono sempre di più, le stesse, vabbè, le coreane che sono alte in classifica, ma anche le cinesi. Cioè, a ogni gara, come quando vai a Shanghai, veramente ogni volta che ci vado io vedo un grattacielo diverso, a ogni gara vedo una cinese diversa. cioè va bene, magari fa due o tre risultati, ta, la cambiano, prendono una giovane e le fanno fare esperienze, loro sono così, quindi... Scuole un po' differenti, un po', questo racconto, anche un po' crudo se vogliamo, infatti, di Risa di Francesca, rende molto bene l'idea sull'uso e getta dello sport di quelle parti. Quanto è importante per voi sapere qualcosa delle caratteristiche di un avversario che state per incontrare? Molto, molto importante, lì entra in gioco il ruolo del maestro che sta a fondo pedana, ricordarsi, far tesoro dell'assalto precedente magari perso o anche vinto e cercare di avere sempre una contromossa, una contraria, perché poi le avversarie non sono stupide, quindi se hanno perso magari c'è anche chi filma l'assalto o comunque c'è chi si ricorda o loro o il loro maestro, le azioni, le stoccate che si sono prese contro e quindi cercano di cambiare. Un'ultima curiosità, spero non sia solo mia ma sia di molti, voi dovete fare dei gesti così veloci, così rapidi, che io stento a pensare che sia sempre tutto sotto controllo. Qualche volta reagite d'istinto? Sì. È un istinto pensato, cioè il pensiero c'è comunque, ragionato, lavorato in allenamento, c'è ma non si vede. Tante volte quando le gare vanno bene, insomma io tiro bene e dico ma quanto mi piacerebbe ripremere quel tasto, trovarlo e ripetere la stessa cosa, però non è così, quindi se sono sempre stoccate d'istinto, sì, veloci, però che dietro hanno molto, hanno un grande ragionamento e tanto pensiero. Cara Elisa, questa è la nostra droga degli sportivi, quando si va in quell'area in cui l'istinto pensato, bellissimo l'ossimoro che ha usato, è una droga. Quando sei in quello stato vorresti restarci per sempre, non è possibile, ma è meraviglioso il flusso. Il flusso, come dicono gli americani. Elisa, ti ringrazio, buon anno. Grazie a voi, anche a voi. Ciao, buon anno. Grazie ad Elisa Di Francesca. Dunque, dobbiamo fermarci un attimo e poi torniamo insieme, naturalmente, per continuare con Andrea Zorzi ad aprire le porte dell'anno olimpico che comincia domani. Non cerimonia d'apertura, è domani, stavamo scherzando, non mettetevi lì il primo dell'anno a sintonizzarvi per giocare la cerimonia di apertura. Ci vorrà un po' di tempo, ma per noi sportivi cominciano subito. Caro Andrea Zorzi, Barbolini, poi Elisa Di Francesca, e così entriamo nell'anno olimpico che comincia domani. Però entrambi sono già a Londra. Sono già lì, pronti ad entrare in campo, in pedana. La regina degli sport però non è né la scherma né la pallavolo. No, malgrado noi. È l'atletica e io sono curioso però, visto che domani inizia l'anno olimpico, di capire qual è lo stato della regina degli sport in Italia. Per questo saluto e ringrazio Francesco Guagliati che è in viaggio. Gli ruberemo poco tempo, però insomma vale la pena di sapere come stiamo. Sono stati anni molto contraddittori, questo è inutile nasconderlo. Buonasera. Buonasera a voi. Direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica. Nell'anno olimpico come sta l'atletica italiana? Beh, diciamo che ci stiamo preparando per affrontare le Olimpiadi nel miglior modo possibile. È chiaro che da un anno all'altro non si possono inventare delle cose nuove. Noi abbiamo fatto una grande operazione sui giovani che però avrà il suo tempo nel futuro. Oggi stiamo cercando di mettere nelle migliori condizioni i nostri migliori atleti per poter far sì che affrontino le Olimpiadi e prima delle Olimpiadi i campionati europei nelle migliori condizioni per ottenere dei risultati che siano confacenti a quelle che sono le loro possibilità. Quindi abbiamo appena cominciato a lavorare, possiamo dire che sarà un'Olimpiade di passaggio, di transizione o comunque un'esperienza importante per qualcosa che stiamo costruendo, non l'Olimpiade in cui raccogliere risultati? Ma io non direi proprio di passaggio, nel senso che noi ci proveremo, sì. I atleti ci proveranno a fare qualcosa, questo, cioè, non è che non la focalizziamo in modo molto importante, per noi è importantissima, sarà sempre molto importante e questo ci porterà sicuramente a cercare di fare le cose nel modo migliore possibile. Per noi, per i nostri ragazzi, perché le nostre maglie azzurre possono trovare la condizione migliore per magari darci qualche soddisfazione ulteriore. C'è qualcuno che definisce l'Olimpiade un uovo di Pasqua di cui non conosci la sorpresa. Chi potrebbe tra i nostri atleti essere la sorpresa gradita alle prossime Olimpiadi? Ma io penso che comunque i nostri migliori atleti, sia essi Antonietta, che naturalmente viene da un campionato del mondo molto buono, ma anche Alex Schwarzer, che si sta preparando molto bene in questo periodo, che sta crescendo molto, poi naturalmente altri che possono fare dei buoni risultati, Vizzoni, naturalmente i nostri mezzofondisti Meucci, che chiaramente non potranno puntare alla medaglia o al podio, ma Comunicazione che sul finale è diventata abbastanza disturbata. Io ringrazio comunque Francesco Guagliati, direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica. Bella l'atletica. Bella, è meravigliosa. Domanda che volevo farti prima, è una mia curiosità un po' morbosa, ti confesserò. Però parlavamo di Seul, del villaggio olimpico, dell'Olimpiade più chiacchierata della storia. Ecco, tu da atleta ti facevi qualche domanda? Rispetto a questi doping, a livello doping, naturalmente ti veniva qualche sospetto, sentivi qualche voce, guardavi qualcuno con sospetto? Dunque, domanda giocando, malata la no, mia, certo, giocando, però sono curioso. Giocando a pallavolo non ho mai avuto nei confronti dei miei compagni, nemici, avversari, sì, nessuno di questi dubbi, sì. Mi rendo conto che altre discipline sono un po' più esposte rispetto al volley. Ricordo però perfettamente di aver guardato insieme con un sacco di altri atleti la gara dei 100 metri con Ben Johnson e Carl Lewis, dei canadesi che insultavano aspramente gli americani per la vittoria, e poche ore dopo arrivò di questa notizia drammatica che ha cambiato il volto di quell'Olimpiade e che ha trasformato gli occhioni. Ecco, ma ti ha sorpreso? Sì. Cioè, sei rimasto sorpreso e hai detto, me l'aspettavo. Sì, no? Ricordo, mi è rimasto ancora, credo sia un ricordo un po' confuso, ma credo che abbiano scoperto l'utilizzo di doping di Ben Johnson, perché l'utilizzo degli steroidi, sì, esterni avevano limitato la produzione interna, e quindi quando gli fecero gli esami il livello era troppo basso, paradossalmente, sì, e quindi non era naturale, il che in qualche modo dimostrava che per un po' di tempo aveva fatto uso esterno di questi medicinali, che è una roba, spesso l'antidoping è un'operazione super complicata. Però a me viene sempre in mente quella frase famosa di Carl Lewis, scritta anche in molti libri: lo guardai negli occhi, aveva gli occhi gialli, e ho capito che il bastardo l'aveva fatto di nuovo. lo so, Andrea, sono robe dure. Rifacciamoci la bocca e sentite dove vi portiamo adesso. E c'è il palo che manda la palla all'esterno della porta di Tempesti. L'Italia è a 10 secondi dalla conquista del titolo mondiale. L'Italia sta per scrivere una pagina leggendaria, ha smentito tutti i detrattori, facciamo festa. Che bello Francesco, che bello Francesco, siamo che campioni bello del mondo. Siamo campioni del mondo, campioni del mondo. Una grandissima partita, una grandissima interpretazione di campagna. I suoi ragazzi hanno saputo soffrire una partita che potevamo vincere anche ai tempi regolamentari. Questo è un sogno, non svegliateci. Dunque, avrai capito? Adesso, caro Andrea Zorzi, dopo Barbolini ed Elisa Di Francesca e poi una spolverata di atletica che però ci lascia un po' meno chance, insomma, ti porto dall'uomo che difendeva quella porta. Stefano Tempesti. Ciao Stefano, grazie. Ciao, buonasera a tutti, salve. Chissà quante volte l'hai risentita questa, eh? Tante, ultimamente anche spesso, sì. Ci si fa sempre piacere, ci dà sempre una carica in più. Senti, ma accetti, l'ho chiesto prima a Barbolini, lo chiedo anche a te, accettate il ruolo di favoriti verso Londra? Oppure no? Oppure dici, si rimette tutto in discussione, c'è qualcuno più forte di noi? Come andate? Ma io? Sì. Rispondo prima io? Sì, sì. Poi, solo tu. Poi Andrea Zorzi ti fa le domande. Cosa ti posso dire? Sì, lo dobbiamo accettare, è un'imposizione, perché se abbiamo avuto un po' il fattore sorpresa dalla nostra in questi ultimi due anni con l'argento agli europei di Zagabria e poi l'oro a Shanghai, adesso non ci possiamo più nascondere. D'altra parte siamo anche consapevoli che è talmente alto in questo momento il livello della pallanuoto in campo internazionale che arrivare primo, arrivare sesti, veramente lo scarto è minimo, e gli avversari che andremo a incontrare, che abbiamo incontrato a Shanghai, sono di un livello veramente, veramente altissimo. Beh, partiamo da questo, parlavi di sei squadre che potrebbero vincere, aiutaci un po' a identificare, dare un nome a queste nazioni. ma guarda, abbiamo l'Est che sempre la fa da padrona con Serbia, Croazia, Montenegro e Ungheria, che sono appunto squadre quotatissime che da anni vincono mondiali, olimpiadi, europei a ripetizione, quindi diciamo che loro sono le favorite. E poi ci siamo noi, che siamo un po' una new entry in questo panorama delle medaglie. La Spagna è una squadra che appunto è stata vice campione del mondo a Roma nel 2009 e che può sempre appunto dire la sua come noi, può puntare molto su questo fattore sorpresa, che ha accolto un po' alla sprovvista avversari che sulla carta erano senza dubbio più forti di noi. Tu sei un po' il veterano di questa squadra di Campagna. Cosa ti chiede Campagna e come interpreti il tuo ruolo? Ma guarda, io ho preso questo ruolo, il ruolo di essere il capitano appunto di questa nazionale, molto, molto a cuore, molto seriamente, perché mi rendo conto che avendo magari circa più di 340 presenze in nazionale, avendo fatto 3 Olimpiadi, c'è bisogno di mettere ogni tanto un po' di esperienza e di dare un po' di serenità e tranquillità a dei ragazzi che si affacciano ora nel mondo appunto della pallanuoto internazionale. C'era chi disputava un mondiale per la prima volta e si è ritrovato subito campione del mondo, ecco, forse Campagna mi chiede la richiesta più sentita da parte del mister, è quella appunto di rimanere coi piedi per terra. Abbiamo vinto, è stata un'esperienza meravigliosa, però ecco, così come eravamo 11esimi a Roma, poi siamo diventati primi a Shanghai all'edizione successiva, può invertirsi tutto in un attimo se si perde quella umiltà e quella voglia di sacrificio che ci ha contraddistinto in questi 2 anni. Ecco, quindi forse il far capire ai ragazzi magari che questa è l'unica strada che possiamo percorrere per poter fare bene a Londra. Parla da vice allenatore, Zorro. Infatti, a proposito di ragazzi, Campagna ha detto che una delle ragioni per cui sono cresciuti così velocemente è legato al fatto che hanno potuto organizzare bene anche il lavoro dei ragazzi nei vari club, quindi collaborazione stretta e fattiva tra nazionale e club. Ma sì, senza dubbio c'è stata in questi ultimi anni una sinergia molto forte fra i club e la nazionale, forse perché si è capito che appunto è nell'interesse di entrambi, sia dei club avere degli atleti contenti in nazionale e sia appunto della nazionale avere degli atleti che arrivino pronti ad affrontare poi le preparazioni in vista degli impegni che si prospettano, perché se è vero che la stagione è lunghissima, altrettanto faticosa, forse di più, è la preparazione che andiamo a fare. Noi abbiamo passato 2 anni dal punto di vista dello stress fisico e mentale, della lontananza da casa, e sono stati massacranti. Ecco, se mi guardo indietro, veramente difficilmente penso che Campagna avrebbe potuto trovare un gruppo di ragazzi così disposti a seguirlo in tutto e per tutto, qualunque cosa lui dicesse, qualunque cosa lui ci chiedesse di fare. Ecco, eccolo il segreto. Venivamo dai club che ci preparavano a tutto questo. Poi io ho la fortuna di giocare in un club che al momento annovera 8 campioni del mondo, ecco, e siamo tutelati e seguiti da tutti i punti di vista, in primis quello sanitario, che ci permette appunto di mantenere un'integrità fisica adeguata, che per la quale possiamo arrivare in nazionale, ecco, essere pronti a affrontare i carichi da lavoro che sono veramente notevoli. Stefano, un'ultima curiosità: com'è il vostro rapporto da pallanuotisti con i vostri cugini nuotatori, quelli magari molto famosi, molto popolari, quelli che vanno in copertina tutte le volte, che intorno ai quali si chiacchiera un casino? Ma guarda, noi le copertine per forma mentis le lasciamo, le abbiamo a loro, lasciate agli altri. Sì, non ti nascondo però che c'è un ottimo rapporto, ecco, che si è evoluto in questi ultimi anni, non so perché, ma c'è stata proprio una grossa complicità. Ecco, mi ricordo la finale dei mondiali di Shanghai, forse il primo che ha abbracciato, uno dei primi è stato Magnini, e poi in seguito la Federica Pellegrini, e tutti i resti erano venuti a vedere la partita ed erano entusiasti di quello che avevamo fatto, vedevo che seguivano la partita con partecipazione, quindi insomma c'è stato poi, ecco, un notevole scambio che magari forse negli anni passati non c'era stato, ecco. Quindi per ora abbiamo un ottimo rapporto e spero che continui così, perché è bello, ecco, potersi scambiare e confrontare anche con loro. Sì, sì, no, non c'è dubbio. Quindi, però, le copertine se le prendano loro, voi vi fate un mazzo così, perché... Purtroppo noi facciamo uno sport di squadra, è più facile sì. che il singolo abbia la copertina che una squadra intera, anche per motivi proprio di legati allo spazio. Quindi se il giorno in cui saremo anche noi così quotati a livello di tutte quelle che sono le riviste, ben venga, ecco. Però loro... Parliamo di super atleti, ecco, stiamo parlando anche nello specifico di Federica Pellegrini, sì, che sì. è un atleta straordinario, ha dimostrato, ha vinto e ha vinto ancora confermandoci, quindi è anche giusto che abbia gli spazi che merita, ecco, assolutamente. Grazie capitano! In bocca al lupo! In bocca al lupo! A proposito, stai meglio, vero? Come, scusate? Stai meglio, vero? Infortuni alle spalle, tutto sistemato? Sì, tutto sistemato, lo stiamo sistemando, sta andando veramente benissimo, come ti dicevo prima, sono super seguito e super coccolato dalla società, dalla nazionale, quindi sto facendo il possibile, compatibilmente con il recupero biologico, di tornare agli europei di Eindhoven a gennaio. Grazie capitano, in bocca al lupo, auguri, grazie. Beh, il lupo, grazie, grazie. Stefano Tempesti, capitano della nazionale italiana, campione del mondo di palla a nuoto. Zoro, io introdurrei il prossimo ospite ricordando due tappe dei tuoi viaggi che abbiamo anche raccontato. Una tappa è Assisi e l'altra è Marcianise. Avrete già capito di cosa stiamo parlando, soprattutto per Marcianise. Per Assisi non si tratta di San Francesco, ma ne abbiamo parlato una settimana fa. Lì che cosa c'è? Ma lì c'è il Centro Federale della Box ed è straordinario vedere come quel luogo sia poi così vicino ad Assisi, quindi qualcuno ha anche borbottato, ma come la box la portiamo dove c'era San Francesco d'Assisi? Invece è un posto bellissimo, con gente straordinaria, con la nobile arte che torna nella sua forma più interessante, ed è proprio di questo di cui parliamo. Ne parliamo con un campionissimo come Roberto Cammarella, che è anche tuo amico. Roberto, ciao! Buonasera a tutti. Ciao Roberto, ben ritrovato, come stai? Bene, bene. Senti gli allenamenti? Faccio solo l'allenamento di mantenimento, poi ci tuffiamo nel sacrificio da gennaio. Ci tuffiamo nel sacrificio da gennaio. Raccontaci questo tuffo nel sacrificio, Roberto. Cosa succede? Ma succede che imposteremo poi la programmazione in vista di Londra 2012, perché è l'appuntamento principale, ma di 4 anni di preparazione, quindi assolutamente da non sbagliare. Da gennaio cominceremo i carichi di lavoro in maniera che arrivi al top a fine luglio. Aiutaci anche a raccontare un po' questa grande divisione che caratterizza il mondo della box: la box dilettantistica, quella che va alle Olimpiadi, e la box professionistica, quella fatta più per il business. E in mezzo c'è Dolce Gabbana. E in mezzo c'è Dolce Gabbana. Ma quella dilettantistica non è solo avere il caschetto e la camottiera, perché noi, forse la parola dilettante ci penalizza un po', noi facciamo lo sport olimpico e a livello internazionale si incontrano campioni veri, e io nel mio piccolo spero di essere uno di questi, nel senso che comunque il mio valore è riconosciuto da tutti, anche dai professionisti. E per quanto mi riguarda preferisco il dilettantismo, dove ancora è rimasto sano l'aspetto tecnico del pugilato, e bisogna lavorare su quello per fare il pugilato. Purtroppo il professionismo, che senza caschetto e canottiera è più uno show a livello di arena, vince chi rimane in piedi e l'altro deve finire per terra. A tempo di sport ci piace provare a incorniciare, a inquadrare la tua disciplina in ambito un po' più ampio. A livello mondiale mi accennavi che la scuola cubana è quella tra le più affascinanti. Sì, diciamo che Cuba e Russia caratterizzano un po' il pugilato. Cuba è più spettacolare, più di movimento fantasia, mentre i freddi russi sono più calcolatori, però menano come fabbri. Senti Roberto, c'è anche questo stacco per cui la box, si dice, è uno sport in crisi di vocazioni. Ti ricordi, Andrea, ne parlavamo anche una settimana fa a proposito del centro di Assisi. Io ti dicevo, però tutto sommato noi italiani riusciamo sempre a portare buoni, ottimi, eccellenti o addirittura pugili campioni come Roberto Cammarelle in giro per il mondo. C'è questo filo che non si spezza. Cosa succede? Perché alla fine riusciamo comunque a rimanere a galla? Questione di scuola, questione di carattere o di che cosa? Ma un po' tutte e due, però secondo me la scuola nostra è superiore a molte altre, infatti noi lo dimostriamo nonostante con i pochi numeri che abbiamo di essere al pari di nazioni potenti o che possono contare numeri importanti come appunto Russia e Cuba, e stare a livello di queste nazioni è importantissimo. Cuba, che non è grossissima, però fanno quasi tutti pugilato, come da noi si comincia a fare calcio a 5 anni, loro cominciano a fare pugilato, quindi per questo non traiamo in inganno. Cuba è piccola e quindi come l'Italia ha pochi numeri, no, assolutamente. Cuba ragiona su numeri nettamente più grossi rispetto a noi. Invece noi nella poca quantità dobbiamo tirare fuori la quantità, la qualità, assolutamente. E la nostra scuola ci permette di tirarli fuori. Senti, ti chiedo anche un'altra informazione. Diciamo prima, box dilettantistica, box professionistica, lì in mezzo c'è un tentativo di creare un mondo nel quale si possa avere il vantaggio del professionismo senza perdere lo status del dilettantismo, che in qualche modo è legato a questo campionato europeo e mondiale di Dolce & Gabbana, giusto? Sì, se, più che di Dolce & Gabbana non vorrei, insomma, si chiama World Series of Boxing, che è una via di mezzo tra professionismo e dilettantismo, di cui l'Italia partecipa come squadra con la Dolce & Gabbana Milano Thunder. È una, diciamo, sperimentazione della nuova formula, perché si sta avvicinando sempre di più l'ipotesi di togliere il caschetto anche per il dilettantismo, quindi un ritorno alle origini, visto che anche il dilettantismo in passato era senza caschetto, e appunto sta nascendo questa nuova formula perché potrebbe essere il futuro. Allora vogliono sperimentare la cosa a livello internazionale, se ha un appeal poi di pubblico, per far diventare questo il nuovo dilettantismo. Non mi sembra però che incontri i tuoi favori, c'è qualche limite, qualcosa che non ti convince di questa formula? Assolutamente non mi convince, per questo non ne faccio parte, perché essendo un ibrido non è né carne né pesce e non mi piace molto. Vedo la tendenza dei pugili bravi dilettanti a diventare meno bravi perché incontrano pugili non all'altezza e che sono un po' più scorretti di loro, ma sono soprattutto molto più scorretti se fossero dei professionisti, e quindi non viene fuori quasi mai un bel match, ancora meno rispetto al dilettantismo e ancora meno rispetto al professionismo, quindi ha un grande limite strutturale, tecnico, e che non mi piace. Tu molto chiaro, Roberto Cammarelle, tu parlavi di correttezza, scorrettezza. Io ti faccio una domanda personale, una mia sensazione, cioè quando vi vedo, c'è un super massimo, però vale per tutte le categorie, quando vi vedo salire sul ring dico, fossi io morirei di paura. Come sale sul ring invece un professionista? Cioè cos'hai dentro? Concentrazione? Cioè, io prendo un cartone di quello lì, mi stendo e non mi alzo più. La vittoria e fare quei triggerini e salire sul ring, lì hai già vinto, ecco, tu con te stesso. Hai capito? Assolutamente, però fondamentalmente ti dirò una cosa che forse nessuno pensa mai, ma eseguire il combattimento, quindi fare l'incontro, è il minimo sforzo per un pugile, perché dietro quella la prestazione che andrai a fare c'è un lavoro immenso che ti ha quasi logorato mentalmente e fisicamente, e non vedi l'ora di salire sul ring e mettere in pratica quello di cui ti sei allenato, hai sudato, hai tirato fuori sangue, quindi francamente un pugile non vede l'ora di salire anche per quel motivo. Sai, mi viene in mente, Roberto, mi viene in mente una famosa frase di Pantani quando una volta gli chiesero ma perché vai così forte in salita, e lui, per accorciare la sofferenza. Beh, francamente anche per il pugile è un po' quello, cioè il combattimento è l'ultimo sacrificio di tutto un lavoro dietro, quindi l'incontro è quello che ti pesa meno. Sì, sì. Roberto, prima di farti gli auguri di buon anno, volevo ringraziarti perché quando ho fatto la visita ad Assisi, sì, lui e Bergamasco, l'allenatore, mi hanno regalato un paio di guantoni grandi grandi, che io metto un po' a fatica. Che io metto un po' a fatica, ma mio figlio di 12 anni li mette tutti i giorni e mi dà un fracco di botte e si diverte come un matto. Così impari, una ragione ci sarà. Ma magari è nato un campione. Grazie Roberto, grazie davvero, grazie, un abbraccio. Ciao. Ciao, buon anno. Vedi Zorro, siamo in chiusura purtroppo perché sarebbe stato bello continuare, ma magari lo faremo. Dai. E tu le prendi secche. Sì, io ho chiesto, allora, Numa, si chiama Numa mio figlio, Numa, dammi pure nel torace, ma non ti sbagliare, perché se mi dai un pugno nella bocca dello stomaco svengo. Ah, davvero c'hai paura, babbo? No, ma ha detto due cose fantastiche, camarelle, ma ne ha dette molte, però quando sali quei 3 gradini hai già vinto. E poi questo... così ti toglie la sofferenza che hai fatto prima, finalmente è finita, vado lì, faccio il mio incontro e poi... basta. Carlo, senti questa, io l'ho visto allenarsi con il loro allenatore e mi sembrava si dessero delle botte paurose. Alla fine mi dicono, no, beh, oggi sai era un po' un allenamento di blando, 30% della forza. Facevano un rumore, una sì, forza, una veramente, poi tanto sono in tanti, sono bravi, uomini e donne, meraviglioso. Senti Andrea, andiamo a Londra. Prima andiamo a fare Capodanno, poi andiamo a Londra. Stasera stappiamo la bottiglia e ufficialmente diamo il tappo a Giorgio De Luca e poi partiamo tutti per Londra domani perché cominciano le Olimpiadi. No, vabbè, cominciano tra un po', però buon anno a tutti. Grazie Andrea, alla prossima. Ciao a tutti, alla prossima. Grazie e buon anno a tutti voi, a Giorgio De Luca in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Ci sentiamo. A tempo di sport.